rapiti di grande passion. Due sposini si accasaron giovani, ma il fuoco si quieta l'ottavo solstizio e la povertà non è un vizio. Amore, quanto prendi ora per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ora per fare l'amore? Amore, quanto prendi ora per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ora per fare l'amore? Ben quattro vani, cinque piani, senza ascensore, con la spesa quanto pesa. Fermiamoci al terzo, hanno aperto un B&B. La mia nonna, santa donna, teneva la casa a uno specchio impeccabile. Tu non lavi, non stiri, né ammiri e trascuri i miei spasmi d'amor. Amore, quanto prendi ora per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ora per fare l'amore? Beh. Amore, quanto prendi ora per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ora per fare l'amore? Beh. I miei pari vanno a donne pagando fanciulle, si sentono ganzi, non c'ho un euro, ma il bisogno carnale mi assale, prevale sui debiti. Ma fra tutte le donne del mondo, se devo pagare per fare all'amore, vorrei garanzia di riuscita con chi nel passato il talento mi ha già dimostrato. Amore, quanto prendi ore per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Beh. Amore, quanto prendi ore per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Bella pecora è un animale, che bella, che bella, che bella che sei. Quando stiri il quadricipite sul tappetino per fare Pilates, de Pilates, una nube attraversa una borsa di Gucci, sembra originale. Ti mantieni, ti depili, ti sbucci, ti incremi, un dubbio mi assale. Mi sovvien che il mestiere più antico del mondo sia giunto in soccorso a pagare le cene, le borse griffate, ma allora un'offerta speciale riservala a me. Amore, quanto prendi ore per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Beh. Amore, quanto prendi ore per fare l'amore con me? Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Beh. Amore, quanto prendi ore? Ma questo matrimonio è diventato un cazzo di maledizione. Faccio l'estetista dall'una alle nove e le bollette non si pagano da sole. E quella borsa è finta, ma non quanto te. Coglione! Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Beh. Amore, quanto prendi ore per fare l'amore? Beh.